Speaking of high school, how big was the gym you played in at Marion? How many people? About 500 people. 500? About 500 people. This seats 26,000. Yeah, I'm looking forward to it. Eccoci qua, Giulia Crivelli, buongiorno, cos'è che abbiamo appena sentito? Era la voce di un giovanissimo Kobe Bryant, intervistato dall'allora, nel 1996, dall'allora più famoso giornalista di pallacanestro, che poi nel frattempo è scomparso anche lui, e dopo la prima partita giocata da Kobe Bryant, che stabiliva il record di giocatore professionista più giovane dell'NBA, gli chiedeva, insomma, com'è giocare, quante persone teneva lo stadio del tuo liceo? Lui, bah, circa 500. Qui invece ce ne stanno 26.000, come ti senti? E lui diceva, well, I'm looking forward to it, cioè ero e non vedevo l'ora di riuscire a giocare qui e insomma è stata una grandissima emozione. Tra l'altro forse avrete anche notato, lui ha questo modo di parlare tipicamente dei neri americani, che può essere nel frattempo, poi in tutti gli anni in cui ha giocato, ha girato per il mondo, è diventato anche più comprensibile, ma all'epoca non era così facile. Quale altre sfaccettature della personalità di questo grande uomo di sport, guarda, ci sono sui giornali di oggi? Devo Giulia? Dire, a parte i giornali tedeschi, ma solo perché chiudono molto presto le prime pagine dei quotidiani, quindi non hanno la notizia, ma i giornali spagnoli, i giornali francesi, Dolor y Gloria titola per esempio Marca, L'Étoile Bryant, che naturalmente è un gioco di parole, quindi la stella che brilla. L'Étoile Bryant, naturalmente l'Équipe, tutti sottolineano anche questa coincidenza, no? Nel giorno in cui LeBron James aveva battuto Kobe Bryant come terzo più grande, come terzo più alto punteggio nella storia dell'NBA, una quantità, decine di migliaia di punti, Kobe Bryant gli aveva mandato un messaggio, e quindi sui siti americani il video più visto in questo momento è quello di LeBron James che in aeroporto a Los Angeles, perché la squadra era in volo quando è successo l'incidente in elicottero, gli viene detto che Kobe Bryant è morto e lui scoppia a piangere. Quindi insomma grande, grande commozione e tributo a questo ragazzo, tutto sommato, insomma aveva 41 anni. Certo. Perciò, poi naturalmente, tra l'altro sì, mi ha colpito perché è in prima pagina anche sul Wall Street Journal, che insomma è un giornale economico, però c'è questa bellissima foto di Kobe Bryant con la sua maglietta 24, che tra l'altro verrà ritirata dai Los Angeles Lakers, ed è la foto notizia, lui tra l'altro mentre salta e naturalmente lancia a canestro. Poi a me tra l'altro fa molto effetto perché ero stato una volta a vederlo, quindi in effetti insomma un grandissimo campione, ho sentito anche Carlo Genta che lo ricordava, anche tutta quella vicenda giudiziaria molto dolorosa da cui è uscito a testa alta, insomma inaspettata questa, ovviamente insomma doppiamente, e tra l'altro ci dice anche che noi pensiamo a Milano di essere una delle poche città che ha una nebbia pericolosa, in realtà Los Angeles, San Francisco, ci sono delle nebbie che appunto mi sembra di capire dalle primi risultati dell'inchiesta che probabilmente è stata quella la causa, cioè la praticamente mancanza di visibilità. Giulia, e invece, sempre sui giornali americani, c'è ancora un po' di cronaca per quanto riguarda l'impeachment, perché insomma, sì, abbiamo detto più volte, si tratta di un rito della democrazia americana, perché poi probabilmente sapremo come andrà a finire, sì, però insomma è un rito che va però raccontato, perché insomma su questo si fonda pure la democrazia, no? Anche perché ha colpito molto che John Bolton, ex National Security Advisor, quindi sì, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, se n'è andato sbattendo la porta, ha scelto questo strano momento per pubblicare il suo libro, guarda caso proprio all'inizio dell'impeachment, e in questo libro lui conferma che c'è stato quel quid pro quo sull'Ucraina, sugli aiuti all'Ucraina in cambio americani, in cambio della promessa di indagare su Biden Senior e Biden Junior, e quindi a questo punto sappiamo che lì il nodo è chiamare o no Bolton a testimoniare, ma ci vuole il sì, l'approvazione del Senato, quanto mai improbabile, però forse questo a vedere nero su bianco Bolton, che fino a ieri era molto rispettato tra i repubblicani, fino a ieri intendo fino a prima delle sue dimissioni, forse potrebbe cambiare gli equilibri, così scrivono New York Times, lo stesso Wall Street Journal, Washington Post e tantissimi altri giornali. Un altro tema largo di questi giorni, di queste ore, è la giornata della memoria. Sì, abbiamo anche se forse... vogliamo, sì, abbiamo trovato questo audio di un sopravvissuto ad Auschwitz. Fu internato nel 1944 a soli 14 anni, oggi ne ha 90 e praticamente ha passato la sua vita da adulto ad andare nelle scuole, incontrare i ragazzi e spiegare quello che è stato l'Olocausto. The screaming at night was just unbelievable. We still didn't understand why they didn't kill us and be finished. Dice, quello, cosa dice? Sì, dice quello che lo screaming, cioè le urla di notte erano difficilissime da sopportare. Tutti ci facevamo la stessa domanda: ma perché non ci uccidono subito? Perché ci lasciano qui? E c'è un altro brevissimo estratto. Why kill babies? Why don't you give them enough food? I ask the children when I speak. Dice a tutti i bambini quando vado nelle scuole, la prima domanda che faccio è: vi prego, assicuratemi, voi che siete il futuro, che non succederà mai più. Ma nessuno dice poi ha il coraggio, né tra i giovani né tra gli adulti, di dire: ti possiamo assicurare che non succederà mai più. Ricordiamo che oggi ce n'erano 200 di sopravvissuti ad Auschwitz e insomma 200 persone che possono raccontare quello che abbiamo appena sentito. Giulia, invece, negli ultimi minuti che ci rimangono, sempre sui giornali europei, forse Francia? Sì, la Francia, Le Figaro dedica, come dicevamo all'inizio, sì, naturalmente grandi approfondimenti sul coronavirus, perché Le Figaro per esempio addirittura il pianeta in allarme. South China Morning Post parla di 5 milioni di persone che avrebbero lasciato Wuhan prima che ci fosse il lockdown, cioè prima che fosse messa in quarantena sostanzialmente l'intera città, l'intera zona. Ma la fotonotizia di Le Figaro: da una parte c'è Anne Hidalgo, attuale sindaco di Parigi, del centro-sinistra, e dall'altra c'è Rachida Dati, una vecchia conoscenza della politica francese, di origine tunisine, era una stretta collaboratrice del presidente Sarkozy e sarebbe lei la candidata. Qui sarebbero due donne a sfidarsi, principale tutto femminile, che quindi Anne Hidalgo sembra aver cambiato idea. Ti ricordi che avevamo detto che non si ricandidava, che non si, invece forse l'idea di una sfida tra donne forse l'ha un po' ringalluzzita, non lo so, ipotizzo. È sfida affascinante comunque. Grazie Giulia, è tutto per oggi, noi ci risentiamo naturalmente domani sia con te sia con Effetto Giorno. Per oggi appunto è tutto, agli ascoltatori che hanno scritto in tanti anche per commentare le lezioni di oggi, mi spiace ma non c'è stato tempo, domani magari. Un ringraziamento a Jacopo De Franchi, redazione, Valeria Bernardi, regia, da Alessio Maurizio, l'auguro di una buona giornata, ciao.